Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Giusto chiedere scusa all'Italia, ma ora l'Europa c'è, così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'Unione ci porterà oltre la crisi. Intanto il Ministro dello Sviluppo Patuanelli ribadisce il no italiano al MES definitivo. Conte invita a aspettare il Consiglio Europeo per capire se sarà con o senza condizioni. La fase 2 inizi con tempi e regole nazionali. Il segretario del PD Zingaretti contro le fughe in avanti delle regioni. Gallera sotto accusa per l'RSA replica: sono disgustato dalle strumentalizzazioni. Confindustria sceglie il nuovo leader. Il Consiglio Generale online elegge Carlo Bonomi. È morto Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno, aveva 70 anni, colpito da coronavirus, era ricoverato in Spagna da fine febbraio. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Come avete sentito, è morto uno dei più grandi scrittori del Novecento per Covid-19, era ricoverato alla fine febbraio in Spagna, Luis Sepúlveda, aveva 70 anni, ne parleremo più avanti. Intanto in Europa, al Parlamento Europeo, la Presidente della Commissione von der Leyen dice giusto chiedere scusa all'Italia. All'inizio della pandemia molti sono stati assenti, ma ora l'Europa c'è. Ne parleremo anche di questo tra poco. Intanto veniamo proprio all'Italia. Il ministro per lo sviluppo Patuanelli torna sulla questione del MES e ribadisce il no italiano al prestito del fondo Salva Stati, mentre il segretario del PD Zingaretti risponde alla proposta della Lombardia di una ripartenza il 4 maggio. Dice Zingaretti: tempi e modi della ripartenza siano nazionali. È stato intanto dimesso il paziente più giovane dall'inizio dell'epidemia in Italia. Mattia è nato una seconda volta, dice la mamma del 18enne di Cremona, dimesso dall'ospedale cittadino dove era ricoverato dal 16 di marzo. Era il più giovane paziente, non aveva patologie pregresse, ma ha dovuto affrontare la terapia intensiva, il coma farmacologico, l'intubazione. Il personale medico lo ha trattato come un figlio. Sono veri eroi, ha detto ancora la mamma, mentre le agenzie registravano la morte di altri due medici in Italia per coronavirus. In totale sono 123. Numeri che rafforzano il monito di Gianni Rezza, il capo del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Si parla tanto di fase 2, ha detto, ma attenti, siamo ancora in fase 1. Una ripartenza per aree geografiche è quanto prefigura intanto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, auspicando che i bimbi possano tornare al parco dal 4 maggio, sia pur con nuove modalità. Come del resto nuove saranno le regole per funerali, battesimi e matrimoni. La CEI le presenterà al governo in settimana. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore. E dicevamo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha lanciato una tregua sul MES dicendo: non ha senso parlarne adesso, lo faremo quando sarà oggetto del prossimo Consiglio Europeo. Ma a rompere la tregua è il ministro dello sviluppo Patuanelli, che ribadisce il no ai prestiti del fondo Salva Stati, mentre sul piano politico resta in primo piano ancora la distanza tra il governo e la regione Lombardia sulla ripartenza. Uno scontro che investe il governo centrale regionale, maggioranza, opposizione. Giulio Gallera, assessore lombardo e leghista, attacca Palazzo Chigi sulla fase 2. Assisto disgustato allo sciacallaggio politico che deforma la realtà sulla Lombardia che vuole riaprire il 4 maggio. Così il governatore Attilio Fontana. È la via lombarda alla libertà. Stiamo progettando la nuova normalità nel segno delle 4D. Distanza tra le persone, dispositivi obbligatori, digitalizzazione e diagnosi. Ma sia i 5 Stelle sia il PD dicono no a riaperture scomposte. E per il segretario Dem Nicola Zingaretti la fase 2 deve partire in tempi nazionali, no a furbizie. Altra questione è il MES, dove la maggioranza è divisa per il CPD e Italia Viva, mentre dai 5 Stelle Patuanelli avverte il no è definitivo, ma aspettiamo il Consiglio Europeo. E dall'opposizione Matteo Salvini invoca il voto in Parlamento prima di andare a Bruxelles, altrimenti si è fuori legge. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Dunque centro contro periferia, ma anche maggioranza e opposizione divise al loro interno sulla questione del MES. La politica in questa fase sembra toccare il punto forse più basso dall'inizio della crisi. Daniele Biacchessi. Tutti contro tutti. Maggioranza e opposizione si presentano così durante la gestione della più grave emergenza sanitaria dell'Italia moderna. Si alternano da settimane sconti e tregue tra partiti e tutto avviene dopo i ripetuti, inascoltati appelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che chiede una maggiore unità, una coesione di intenti, un rispetto reciproco. L'ultima divisione riguarda il MES, il Fondo Salva Stati. Partito Democratico e 5 Stelle sono ai ferri corti, le posizioni sono distanti e Giuseppe Conte è costretto alla mediazione. Non ha senso discutere ora del MES. In sostanza il Presidente del Consiglio rimanda la battaglia nelle aule del Parlamento perché presentarsi al Consiglio europeo con una maggioranza spaccata sarebbe già una sconfitta. Ma il MES lacera anche le opposizioni. Silvio Berlusconi si sfila da Matteo Salvini e Giorgia Meloni e anche all'interno dei due partiti di maggioranza, PD e 5 Stelle, le posizioni sono sfumate, contrapposte. In un paese che tenta faticosamente di riprendersi e ripartire a breve, il bene comune resta l'unica cosa che manca nell'agenda della politica italiana. E veniamo alle parole della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'Europa è stata assente all'inizio, ma ora c'è, così ha detto la von der Leyen nel suo intervento al Parlamento europeo. We will use the power. Useremo la potenza del bilancio pluriennale europeo come guida per la ripresa e leva per investimenti massicci che servono per far ripartire il mercato interno dopo il coronavirus, ha detto von der Leyen, che ha aggiunto: è vero che molti erano assenti quando l'Italia ha avuto bisogno di aiuto all'inizio di questa pandemia ed è vero, l'Unione ora deve presentare una scusa sentita all'Italia, ma l'Unione è il cuore pulsante dell'Europa e ci porterà oltre la crisi. E ora parliamo del sostegno economico alle attività produttive, sostegno annunciato dal governo, intanto è stato pubblicato sul sito del Fondo di Garanzia e su quello del Ministero dello Sviluppo Economico il modulo relativo alle garanzie del 100% sui prestiti alle aziende fino a un massimo di 25.000 euro. Oltre a questa garanzia dello Stato però è necessario che le banche eroghino effettivamente poi questi fondi. Oggi intanto audizione del ministro del lavoro Catalfo alla Camera sulle conseguenze occupazionali del coronavirus. Alle 16 di ieri le domande per prestazioni INPS previste dal decreto Cura Italia pervenute telematicamente sono 4.709.097 per più di 8,8 milioni di beneficiari. Così la ministra del lavoro Nunzia Catalfo nell'informativa alla Camera sull'emergenza Covid-19. Oltre 4 milioni di domande riguardano il bonus da 600 euro per gli autonomi. 2,5 milioni al momento hanno ottenuto l'accredito sul conto corrente. Con il decreto abbiamo tutelato quasi 19 milioni di lavoratori. L'INPS ha lavorato alacremente nonostante numerosi attacchi informatici, ha dichiarato la ministra, spiegando: abbiamo dovuto far fronte all'emergenza con strumenti normativi vetusti e farraginosi. Sul fronte piccole e medie imprese e professionisti è disponibile da martedì il modulo da inviare per chiedere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25.000 euro con le prime erogazioni possibili già lunedì. Le parole del ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'elezione del nuovo presidente di Confindustria. Il Consiglio Generale dell'Associazione Industriale ha votato online questa mattina Teresa, mi sono confuso col nome. Qual è il risultato, l'esito della votazione che abbiamo anticipato del resto nei titoli? Carlo Bonomi. Buongiorno, Carlo Bonomi, come dici tu, è stato designato presidente di Confindustria dal Consiglio Generale dell'Associazione che questa mattina per l'emergenza coronavirus ha votato per la prima volta in via telematica. L'elezione definitiva del presidente ci sarà il 20 maggio durante l'assemblea privata. Carlo Bonomi è il presidente, è stato dal 2017 presidente di Asso Lombarda, è nato a Crema il 2 agosto del 1966 ed è un imprenditore del settore biomedicale, presidente della Sinop e delle aziende manifatturiere controllate Sidam e BTC Medical Europe. E dal luglio 2019 è anche presidente della fondazione Asso Lombarda. E per il momento è tutto da Roma e ridarei la linea allo studio. Grazie Teresa Trillò. Adesso ci occupiamo degli sviluppi e delle inchieste nelle case di cura, nelle case di riposo italiane, perché oltre a quelle della Procura ci sono anche le ispezioni fatte dal Ministero della Salute, ci sono i risultati per quanto riguarda il caso del Trivulzio, sentiamo. Il direttore generale aggiunto dell'OMS Ranieri Guerra ha parlato ieri di un massacro di anziani nelle case di riposo italiane e di standard di prevenzione che dovevano essere molto più rigidi. Questa mattina il sottosegretario alla salute Sandra Zampa ha fatto sapere che si è conclusa l'ispezione del Ministero al Pio Albergo Trivulzio e ha puntato il dito contro la Regione Lombardia. Le disposizioni date a tutte le RSA d'Italia erano chiare, ha detto, non far entrare dall'esterno possibili contagiati, ma la Regione Lombardia non ha fatto altro che disattendere le indicazioni del governo. Basta con questo sciacallaggio politico e mediatico, si sfoga su Facebook l'assessore lombardo Giulio Gallera. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili in tempi ristretti, troppo facile sputare sentenze col senno del poi. Le indagini in corso in tutta Italia da parte dei NAS, dei Carabinieri, d'altra parte, di cui 40 coordinate dalle procure, hanno evidenziato da febbraio irregolarità in 104 case di riposo su 601 ispezionate. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da Palermo viene una storia di emergenza nell'emergenza, riguarda un'altra casa di riposo sequestrata per gravi problemi precedenti però all'epidemia di coronavirus. Indagavano su un caso di bancarotta i finanzieri che hanno fatto scattare il blitz nella casa di riposo di Palermo sottoposta a sequestro. Arrestate l'amministratrice e 5 sue collaboratrici con le accuse a vario titolo di maltrattamenti, bancarotta, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le telecamere nascoste hanno svelato gli episodi di violenze fisiche e psicologiche ai danni degli ospiti della struttura. Una situazione che aveva portato all'esasperazione gli anziani, spingendo una donna a tentare addirittura il suicidio. Per gli ospiti ora scatteranno i controlli medici per verificare anche eventuali contagi da coronavirus. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un'altra notizia di cronaca arriva dal torinese. 400.000 mascherine importate illecitamente per essere vendute in tutta Italia sono state sequestrate oggi dalla Guardia di Finanza di Torino. 4 imprenditori cinesi volevano sfruttare lo svincolo diretto dei servizi essenziali per questo tipo di importazioni, ma sono stati fermati. L'operazione era in realtà illecita. Ora il prezioso carico di mascherine finirà alla Protezione Civile. E come avete sentito anche dai titoli, è morto a 70 anni dopo essersi ammalato di coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Era stato contagiato dal coronavirus a fine febbraio, di ritorno da un festival letterario in Portogallo. Le voci sulle sue condizioni di salute si sono alternate. Qualche settimana fa un giornale spagnolo aveva fatto sapere che era in coma, ma poi la moglie aveva smentito. Ora purtroppo è certo, il Covid-19 ha ucciso anche Luis Sepúlveda, uno degli scrittori latinoamericani più noti al mondo per la sua letteratura e per la sua storia politica. Aveva esordito nell'89 con Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, diventato un classico, così come Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, favola dalla doppia lettura per bambini e per adulti. L'impegno politico e civile era legato a doppio filo con i libri. In Il mondo alla fine del mondo aveva raccontato la sua esperienza su una nave di Greenpeace contro la caccia alle balene, campagne ambientaliste e lotta contro qualunque dittatura. Sostenitore del presidente cileno Allende, dopo il colpo di stato di Pinochet del 73, Sepúlveda finì in carcere dove venne torturato. Solo grazie alle pressioni internazionali fu scarcerato, poi nuovamente arrestato e l'ergastolo trasformato in esilio. Un esilio che ha pesato per tutta la sua vita. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 14 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dai test sierologici, perché è notizia di poco fa che il Comitato Tecnico Scientifico che sostiene il governo ma anche il Ministero della Salute avrebbero definito e indicato le piattaforme che dovranno essere utilizzate per l'esecuzione di questi test degli anticorpi molto importanti, cruciali per affrontare la fase 2. Speriamo che ce ne siano a sufficienza per gli obiettivi che ci si pone con questo campionamento. Ripartiremo da qui, dalla Regione Liguria, che ha reso noti i primi dati. Ebbene, ci sarebbe un 15% di popolazione già contagiata da coronavirus. Tra poco, 349 238 6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Giusto chiedere scusa all'Italia, ma ora l'Europa c'è. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che aggiunge: l'Unione ci porterà oltre la crisi. Il ministro dello sviluppo Patuanelli ribadisce il no italiano al MES. È definitivo. Conte però invita a aspettare il Consiglio europeo per capire se sarà con o senza condizioni. La fase 2 inizi con tempi e regole nazionali. Il segretario PD Zingaretti contro le fughe in avanti delle regioni. Gallera sotto accusa per le RSA. Replica: sono disgustato dalle strumentalizzazioni. Confindustria sceglie il nuovo leader. Il Consiglio Generale online vota Carlo Bonomi. È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno, aveva 70 anni. Colpito dal coronavirus, era ricoverato in Spagna dalla fine di febbraio. Le 13:18, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi, e salutiamo, è con noi il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, fa parte della task force, della regione Liguria, per quanto riguarda in particolare anche la fase 2. Cruciale nella fase 2 sono i test sierologici. Abbiamo avuto notizia poco fa, professor Bassetti, che sembrerebbe che il Comitato Tecnico e il Ministero della Salute abbiano individuato le piattaforme per effettuare questi test su base nazionale. Lei ieri ha anticipato alcuni dati, i primi dati con cui siete venuti a conoscenza, a disposizione di questi test che sono stati fatti in Liguria, e c'è un dato che lei ha anticipato molto importante: 15% di persone che risulterebbero contagiate. Adesso cercheremo di capire molto bene come interpretare questo dato, che è assolutamente cruciale, mi sembra. Intanto le voglio chiedere, professore, a quali persone e quale tipo di test sono stati sottoposti, perché si è parlato personale sanitario, pazienti, ex pazienti, chi è che ha ricevuto il test in Liguria? Allora, intanto mi consenta di dire, finalmente il Ministero della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico sono divenuti, quasi due mesi dopo i primi casi, a dire qualcosa sui test sierologici. Credo che forse andavasse fatto prima. Perché se ne parla da tempo della necessità, ecco, esatto, di avere un'uniformità, però insomma. Un'uniformità nazionale, anche per evitare che ognuno vada per la propria strada slegato, e che soprattutto si prendesse come riferimento unico il tampone, che, come abbiamo detto tante volte, è un ottimo test per i sintomatici, ma non è perfetto. Quindi ben venga quello che il Ministero ha appena fatto. I test che sono stati eseguiti spontaneamente dalle persone in questi laboratori privati, fondamentalmente da soggetti asintomatici che avevano voglia di capire se fossero venuti o meno in contatto con il virus, soggetti poco sintomatici o contatti di soggetti che avevano avuto appunto l'infezione. Quindi mettiamo insieme più cose diverse. In più, molti sono stati eseguiti anche nelle residenze per anziani, nelle cosiddette RSA. Professor Bassetti, possiamo dire per approssimazione che questo campione di persone corrisponde in parte almeno a quella fascia di popolazione che è venuta a contatto con dei sintomi, col coronavirus, con dei casi, ma che, non è, essendo stata ospedalizzata, non ha ricevuto tamponi, e quindi, come dire, erano le prime persone che richiedevano, come dire, una risposta in qualche modo, no? Da tanti punti diciamo di vista. Queste persone mettono insieme tante cose diverse, come le ho detto. Certamente a molti saranno anche contatti, ma a molti probabilmente non è detto che lo siano stati, o almeno non lo sapevano di esserlo stati. Quindi rappresentano uno spaccato di quella che è la società civile, che ci dice che con percentuali diverse, ma parliamo di due regioni altamente interessate dal fenomeno, perché Lombardia e Liguria sono state tra le prime interessate, percentuali variabili, abbiamo punti di 5%, in alcune aree 10%, 12%, 13%, 15% e anche di più. Quindi i numeri stanno in qualche modo andando a combaciare con ciò che già l'Imperial College di Londra, che è una delle istituzioni più prestigiose al mondo di modelli matematici anche di tipo epidemiologico e infettivologico, diceva che la popolazione italiana che sarà sarà risultata positiva sarà del 10%, e quindi è evidente che questo 10% è su base nazionale, poi avremo regioni in cui probabilmente sarà il 20%, altre in cui sarà il 5%. Senta, professore, le posso chiedere se all'interno, diciamo, di questi test è già stato possibile anche analizzare IgM e IgG, cioè la presenza di anticorpi che testimoniano una presenza in questo momento possibile della malattia, oppure una malattia pregressa che lascia, come dire, l'immunità, poi non sappiamo per che periodo di tempo, però se siamo in una fase ancora acuta o invece in una fase già di successiva. Guardi, abbiamo un misto di IgM e IgG che evidentemente ci permettono di vedere anche fasi diverse dell'infezione, perché le M sono quelle più precoci, sì. Le G sono quelle che vengono più tardivamente. Poi per dare una risposta su quanto queste G, da dove presenti, siano realmente immunizzanti, cioè siano realmente quelle che ci consentono di non infettarci più con il virus, questo bisognerà vederlo. È probabile presto, che sì. Almeno nel breve dovrebbero dare una sorta di immunità. Poi bisogna vedere per quanto tempo dura 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 5 anni. Io credo che sarebbe già tanto se riuscissimo ad avere che queste IgG arrivino almeno a darci un ponte fino al vaccino, certo. Questo sarebbe già tantissimo, certo. Però poi bisogna vedere, perché come lei sa nell'immunità non ci sono solo le G, le cosiddette gli anticorpi G, le immunoglobuline G, ma ci sono anche altre forme di difesa, i macrofagi, altre linee, per cui è un po' un argomento spinoso, difficile anche da spiegare. Ma come dire, è l'inizio di un percorso, come se stessimo entrando all'interno di una foresta e ci stessimo facendo largo tra la selva, insomma, per cominciare a districarci, a capire qualcosa di più di questa epidemia. A proposito di questo e di quello che diceva lei poco fa, professor Bassetti, ammettendo che una media nazionale di un 10, cioè un dato come questo, un 10-15%, potesse essere anche confermato poi su scala nazionale, a cosa ci servirebbe? Sarebbe sufficiente ad immaginare un rallentamento del contagio, un rallentamento fisiologico, oppure assolutamente no, e quindi diciamo questo dato del 10-15% dei contagiati è importante, ma come dire, non cambia l'andamento dell'epidemia? No, allora quello che ci permette di dire questo 10% o 15% o 6%, quando avremo un dato come dire complessivo, sarà semplicemente di capire quanto il virus si è diffuso e quanto ha viaggiato nel nostro paese, cioè quanto è stato il reale numero di soggetti contagiati, esattamente come avviene quando abbiamo un'epoca influenzale, cioè noi possiamo dire ragionevolmente che in Italia in una stagione influenzale abbiamo avuto 5 milioni, 6 milioni, 8 milioni, 10 milioni di casi, però quello che ci consente anche di capire è quali sono state le percentuali di letalità, di ospedalizzazioni o di casi gravi, perché un conto è calcolarle su 100.000 casi, un conto su 1 milione, un conto su 5 milioni. Lei capisce che oggi noi parliamo di una letalità intorno al 10% in Italia. Se questi dati venissero confermati, è chiaro che la dobbiamo dividere non per 10, ma probabilmente per 20, per 30, per 40, per 50. E quindi è chiaro che il suo impatto globale potrebbe in qualche modo cambiare. Certo. Senta, professor Bassetti, lei è direttore della clinica del San Martino di Genova di malattie infettive, ma anche ordinario, quindi unisce la clinica e anche lo studio dei virus e delle epidemie. Le vorrei chiedere un parere sulla questione dei bambini e della ripresa scolastica, perché sta creando, io credo, tra gli italiani un po' di sconcerto l'idea, quel che si sente dire, ma è stato un annuncio del presidente francese Macron, la riapertura delle scuole l'11 di maggio, la Francia che è entrata nell'epidemia dopo di noi, la stessa cosa sta pensando di fare la Germania, invece in Italia non c'è ancora una data, a parte il fatto che diciamo una data potrebbe anche essere comunicata, anche se fosse settembre, ma non c'è una data, e questo diciamo attiene alla scarsa chiarezza del governo. Ma le voglio chiedere, dal punto di vista proprio della questione dei bambini, perché si sa che sono stati toccati poco dalla malattia, però possono essere asintomatici, contagiosi. Ma c'è qualcosa che ci sfugge a noi in alcuni ragionamenti negli altri paesi? Oppure è possibile che ci sia una bassa carica virale in questo, diciamo, asintomaticità, che possa essere poco contagiosa e che quindi possa, diciamo, consentire di riaprire le scuole con maggiore serenità in quei paesi in cui si sta pensando? Oppure ci sono ragionamenti che noi non capiamo? Lei che cosa ne pensa? Guardi, io quello che le posso dire è questo: io non entro nelle scelte perché non compete a me, ma se si ricorda, quando furono chiuse le scuole a livello nazionale, lo stesso comitato tecnico-scientifico che doveva dare consigli al governo non era, come dire, totalmente d'accordo alla chiusura delle scuole. Perché? Perché se lei va a vedere l'evidenza scientifica, è quello che lei mi sta chiedendo, non c'è un'evidenza così alta sul fatto che la chiusura delle scuole sia meglio prolungarla, continuarla, piuttosto che altri tipi di soluzioni. Immagino che gli altri paesi europei sull'evidenza scientifica si siano basate nel momento in cui hanno deciso di riaprire le scuole. Noi abbiamo capito che questa è un'infezione che ha fatto tanto male quanto più elevata era l'età delle persone, no? Perché sì, abbiamo avuto un'infezione che ha fatto una letalità sopra i 70 anni impressionante. Probabilmente queste sono delle categorie che si sarebbero dovute tutelare in maniera diversa. Noi abbiamo chiuso le scuole mantenendo a casa i bambini con gli stessi nonni che poi si sono ammalati. Quindi è probabile che i bambini potrebbero essere un veicolo di infezione senza nella realtà loro fare i sintomi, perché in effetti se guardiamo la casistica italiana di bambini ricoverati o di bambini con problemi non ne abbiamo praticamente visti. Sono stati. Ma il fatto che appunto non riportino conseguenze può voler dire che c'è una bassa carica virale e anche il contagio possa in qualche più modo... Più che bassa carica virale è un problema di reazione col sistema immunitario, perché qui abbiamo visto che questa infezione fa tanto più male quanto maggiore è l'infiammazione che si viene a creare a livello polmonare, certo, a livello dell'albero respiratorio. Per cui nei bambini tutto questo avviene in maniera minore o addirittura non avviene per niente, però io non direi che è un problema solo di carica, è un problema probabilmente del fatto che i bambini probabilmente la fanno in maniera maggiormente asintomatica e quindi probabilmente rappresentano maggiormente dei veicoli, come del resto sono i giovani adulti, perché se noi guardiamo i dati per esempio della Sud Corea si parla di un 30% di prevalenza sotto i 40 anni, cioè vuol dire che sotto i 40 anni il 30% delle persone sono potenzialmente state infettate e quindi potenzialmente contagianti per gli altri. Va bene, staremo ancora a vedere allora. Grazie professor Bassetti del San Martino di Genova, grazie per essere stato con noi. E allora continuiamo a parlare di emergenza Covid e ci occupiamo dei medici, del personale sanitario, ma anche degli infermieri. Chi si preoccupa per loro? Beh, insomma, in tanti stanno ricorrendo, dove è disponibile, a un servizio di sostegno psicologico. È la storia di un operatore sanitario che mi ha contattata perché voleva un sostegno per il fatto che per la prima volta in modo così netto si è trovata a confrontarsi con la morte. Avevano un grande peso sulla sua anima gli sguardi di coloro che invece non ce l'avevano fatta e di quanto ciascuno di loro era stato importante per lei. Questa che avete appena sentito è una delle storie che Carlotta Ghironi, psicologa di Vidas, ha raccolto nel corso del suo lavoro. A chiamarla sono i medici, gli infermieri e il personale che sta lavorando in ospedale in questi giorni di emergenza coronavirus. Per loro è stato istituito un pronto intervento psicologico. Le persone che mi chiamano parlano di timore e di paura. Timore è la paura di essere contagiati, ma anche il timore di poter contagiare altre persone inconsapevolmente. La paura e la responsabilità che si sentono di avere nei confronti dei pazienti e mi parlano anche dello sguardo che sentono di avere da parte del resto della popolazione, del mondo. Dall'inizio dell'epidemia 120 medici sono morti, spesso perché in prima linea, senza strumenti idonei di protezione, oltre 30 gli infermieri deceduti, migliaia i contagiati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:30, eccoci qua di nuovo in diretta per poco perché stiamo per ridare la linea alla pubblicità, poi alle informazioni di borsa, torniamo tra poco con i titoli, tutte le altre notizie. 349-238-6666 per commentare quello che avete sentito sin qua, a tra poco. perfetto giorno. Queste le notizie di oggi. Il consiglio direttivo della BCE è impegnato a fare qualunque cosa necessaria nel suo mandato per aiutare l'Eurozona a uscire da questa crisi, lo ha detto poco fa la presidente della BCE, Christine Lagarde. Giusto chiedere scusa all'Italia, ma l'Europa c'è. Così invece poco fa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti al Parlamento europeo. E tanto il ministro dello sviluppo Patuanelli ribadisce il no italiano al MES. Conte invita ad aspettare il Consiglio europeo per capire se sarà con o senza condizioni. Case di riposo, chiusa anche l'ispezione del Ministero della Salute, altri vulsi, violata la disposizione di non far entrare i contagiati. Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria, il consiglio generale dell'associazione, si è espresso oggi con voto online. Morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno, aveva 70 anni, colpito da coronavirus, era ricoverato in Spagna da fine febbraio. Eccoci qua, 13:35 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta da Alessio Maurizi con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, e per esempio sulla questione della scuola, scuole aperte, non ci sono solo i bambini a scuola, ma come si fa a non pensarci, dice questa ascoltatrice. Naturalmente pensiamo anche agli insegnanti, insegnanti che in media hanno una, forse un'età più elevata in Italia che non in altri paesi europei. Ci siamo solo interrogati sul perché in Francia si pensa di riaprire, non credo che pensino a un suicidio collettivo così in Germania, e sul perché invece in Italia non ci sia ancora certezza. Poi non è che diciamo che bisogna riaprire la scuola domani, ma almeno capire perché si pensa di riaprire le fabbriche e non le scuole, perché si pensa di riaprire i parchi e non le scuole o cose di questo genere. Così come ascoltatori che dicono perché dovete dire che scarsa chiarezza da parte del governo, per quale motivo ancora non si è sicuri di quello che si deve fare, dice questo ascoltatore, quindi il governo non può fornire chiarezza e certezze. Certo, è il dibattito tra la scienza e la politica. La scienza fornisce informazioni ma non certezze, la politica deve dare invece risposte, se non vogliamo chiamarle certezze, delle risposte sulla base della scienza, ma non può nascondersi dietro alla scienza. Bisognerà a un certo punto decidere qualche cosa sulla base di quello che si sa, non si può aspettare che siano gli epidemiologi a dirci cosa fare, se dobbiamo andare a fare la spesa, andare in bagno, andare a scuola, andare in ufficio. Dobbiamo deciderlo a livello politico, naturalmente. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Il coronavirus rischia di far esplodere tutte le contraddizioni di questa Italia coraggiosa e resistente, ma sempre troppo fragile. La prima è l'amalgama al governo tra un PD a forte trazione europeista e i 5 Stelle più liquidi, con forti radici nel mondo del populismo sovranista, allergico all'eredità dell'Unione Europea, e la ridicola polemica sul MES ne è un suggello. La seconda è l'assetto istituzionale in tema di sanità e non solo. Se una pandemia, che è poi la malattia del mondo intero, non si può affrontare certo con le piccole patrie degli staterelli, figuriamoci se può essere fronteggiata dalle ambizioni di singole regioni. Le difficoltà tra Stato centrale e regioni sono frutto dell'assetto squilibrato deciso dalla riforma del titolo V della Costituzione, quando lo spirito del tempo era la sbornia federalista. A questo si è aggiunta la polemica politica, laddove la Lombardia viene vissuta come laboratorio dell'opposizione. L'ultima contraddizione è quella del contrasto di approcci tra la scienza o la tecnica e la politica. La decisione dell'esecutivo di circondarsi di comitati tecnici, imitata peraltro anche dalle regioni, può aiutare ad avere elementi per tracciare la rotta, ma troppo spesso sembra un alibi per sfuggire il momento della scelta, che è poi il cuore della politica. A volte è difficile e rischiosa, ma è l'unica cosa che alla fine aiuta i cittadini a trovare la fiducia per continuare magari anche nei sacrifici. E allora proviamo ancora a parlare di fase 2. Che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di ripartire convivendo con il virus, ma cercando di avere gli strumenti giusti per farlo. Ecco, allo stato attuale sembra proprio che la Il problema principale che abbiamo di fronte, l'ostacolo principale, sia la carenza di questi strumenti. La app non c'è ancora, le mascherine non sono sufficienti, ancora così i gel igienizzanti, così i reagenti per i tamponi non ci sono, i test non hanno ancora una validazione scientifica, anche se di oggi la notizia del comitato tecnico che avrebbe detto che ci siamo quasi. C'è bisogno di uno scatto organizzativo nazionale. C'è chi questo scatto lo fa nel suo territorio come può. È il caso, per esempio, di questo imprenditore, Massimo Cecchini. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie. Amministratore delegato della STR Automotive, che ha sede a Pesaro, produce componenti per auto. Ha quanti dipendenti lei ha, Cecchini? Abbiamo 300 addetti complessivamente, naturalmente nella quota sono compresi anche alcuni interinali. 300 addetti. Lei che cosa ha fatto a un certo punto di fronte a questa incertezza? Non vogliamo gettare la croce addosso a nessuno, non vogliamo, diciamo, prendercela col manovratore, sappiamo che è difficile procurarsi i dispositivi, fare i test e tutto, questo l'abbiamo capito, però per esempio sulla questione delle mascherine ormai è più di un mese, abbiamo un commissario anche specifico su questo, ci domandiamo che cosa manchi ancora per insomma, essere pronti. Lei, a proposito dei test, che cosa ha fatto, Cecchini? Ma allora, noi abbiamo un paio di settimane fa, una ventina di giorni fa, affiancato agli altri strumenti fondamentali per la gestione, come ha anticipato lei qualche secondo fa, per la gestione e la convivenza con questo virus, che sono appunto l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e altrettanto importante un regolamento, un protocollo sanitario di cui ci siamo dotati, che obbliga diciamo un aggiornamento verso nuove modalità di relazione con gli altri, di comportamento, di ingresso, di viaggio, di spostamento. Sì. E c'è un altro sistema complementare assolutamente importante, quello di procedere con delle analisi. Noi abbiamo fatto delle analisi di ricerca degli anticorpi. Lei ha comprato i kit, lei ha detto sì, questi kit non ci sono, se l'ASL non ci chiama, non è possibile farli in ospedale, li faccio io. Sì, noi abbiamo contattato un laboratorio di analisi importante qui a Pesaro e abbiamo con loro appunto, siamo con loro riusciti insomma a comprare, a prenotare, ecco, 300 kit, poi ne abbiamo purtroppo ricevuti solo 60 perché gli altri sono stati bloccati. E abbiamo utilizzato, ecco, questa metodologia di analisi sui primi 60 individui, speriamo, ecco, di ripartire prima possibile con per tutti gli altri. Adesso ci dirà anche i risultati di questi test, Cecchini, ma sì. Io immagino qualcuno dirà, vedi, questo imprenditore è assetato di profitto, vuole solo pensare ad andare a produrre, eccetera, eccetera, però io non credo che sia solo questa la questione, perché abbiamo strumenti per capire, per conoscere la realtà, lei questo ha fatto, cioè io voglio sapere, voglio aiutare i suoi dipendenti, per esempio, se ho capito bene, mi sembra che si siano, anzi, erano ben contenti di... Entusiasti. Guardi, la situazione a mio avviso si può, poi parliamo se è a piacere dei risultati, ma si può inquadrare con un esempio, a mio avviso, insomma, semplice ma efficace. Noi abbiamo un'emergenza, ok? È un'emergenza che è sanitaria, che ci ha costretto a fermarci e quando siamo fermi, no, poi partono altri problemi, no, compresi quelli di natura economica. È chiaro ormai per tutti che il virus domani non scomparirà, quindi è chiaro che dobbiamo imparare a conviverci. Per conviverci dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, le protezioni sono uno strumento eccezionale, i comportamenti, il distanziamento sociale, ma le analisi ci permettono di fare una fotografia, certo, no, della situazione, e quindi di andare in maniera specifica a capire dove, come, chi, quali sono le situazioni. Senta, quali sono stati i risultati del test? Noi poco fa abbiamo parlato dalla Liguria e dalla Lombardia, i primi risultati parlano di un contagio tra il 10 e il 15% della popolazione. Nel vostro caso siamo a Pesaro? Allora, guardi, noi sui primi 48 esaminati, nella giornata del 3 aprile, abbiamo 12 positivi, quindi il 25%. La cosa utile, ecco, che emerge da questo test è che di questi 12, 4 avevano avuto 4-5 problemi influenzali, più o meno, diciamo, intensi, ma un mese e mezzo sì, fa. E gli altri invece? 28 non avevano avuto. Non sospettavano di aver avuto niente. Quindi, no, cosa succede? No, che per completare appunto il ragionamento e per provare a, ecco, a sottolineare l'efficacia di questo strumento allineata agli altri, no? Immagini che noi stiamo tenendo in un database aziendale il monitoraggio della salute di tutti i dipendenti, che vengono intervistati quasi giornalmente, ci raccontano se stanno bene, se stanno male e se hanno affrontato situazioni di rischio. Qualora un dipendente abbia un colpo di tosse oggi, noi prudenzialmente non lo facciamo rientrare per i prossimi 14 giorni. Ma ecco che quei positivi che abbiamo trovato e che hanno uno stato di salute ottimo da 2 mesi, completamente asintomatici, non fanno uno sternuto da 2 mesi, sarebbero rientrati. Quindi perché spingiamo con l'integrazione dello strumento di analisi a tutto il resto? No, no, ma chiarissimo, chiarissimo. Se non sappiamo, se non conosciamo la situazione, non possiamo assolutamente agire. Poi non vuol dire, io intanto la ringrazio, Cecchini, imprenditore di Pesaro, Massimo Cecchini, per essere stato con noi. Questo non vuol neanche dire che poi di fronte a un test dove c'è un IgG positivo, dice siamo sereni, no, questa persona può fare qualunque cosa. Non è così semplice, però... Avete capito i distinguo che si possono fare, i ragionamenti che si possono fare, avendo, e che sta facendo anche questo imprenditore, mi sembra in buona coscienza, avendo però delle informazioni, delle conoscenze. Ma del resto è quello che avverrà, speriamo, il prima possibile, speriamo su scala nazionale, e insomma staremo a vedere. Test degli anticorpi. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli.